Il numero delle alunne era così esiguo che la presenza ad ora fissa alle lezioni di certe materie non era imposta rigidamente, come avveniva in scuole più frequentate. Quando le ragazze erano pronte, si presentavano per dire la lezione assegnata. Miss Fuller aveva un dono speciale per interessarle a tutto quanto dovevano imparare. Esse consideravano lo studio non come una serie di compiti da svolgere, ma con un sano desiderio, una vera sete del sapere di cui ella era riuscita a far loro apprezzare il piacevole sapore. Non mettevano da parte la lettura o l'apprendimento appena cessata la costrizione della scuola. Era stato loro insegnato a pensare, ad analizzare, a scartare e ad apprezzare. Charlotte aveva avuto fortuna nella scelta della seconda scuola in cui la mandarono. Vi era una robusta libertà nella vita all'aperto delle sue compagne. Si impegnavano in allegri giochi nei campi che circondavano la casa. Durante la mezza vacanza del sabato facevano lunghe passeggiate, ora scendendo a tastoni lungo misteriosi sentieri invasi dall'ombra, ora inerpicandosi per i ripidi pendii, fino a conquistare un'ampia visuale sulla terra di cui c'era tanto da dire, narrandone la storia passata e presente. Miss Fuller deve avere posseduto con grande perfezione l'arte francese del raccontare, se giudichiamo dal ricordo che le sue alunne conservano delle storie che narrava durante quelle lunghe passeggiate su quella vecchia casa, su questa nuova manifattura e delle condizioni della società, sui cambiamenti portati dal passare del tempo, evidenti nell'uno e nell'altro edificio, segnato dalle differenti date. Ricordava i giorni ormai lontani quando coloro che vegliavano nel cuore della notte udivano le lontane parole di comando e i pesanti passi cadenzati di uomini disperati e pronti a tutto che venivano addestrati occultamente in preparazione del grande giorno che la loro immaginazione si prefigurava quando il buon diritto, chiamato a misurarsi con la potenza bruta, uscirebbe vittorioso dalla lotta. Quando il popolo inglese, rappresentato dagli operai dello Yorkshire, del Lancashire, del Nottinghamshire, dovettero far risuonare le loro voci in un orribile coro, visto che le loro giuste e pietose proteste non venivano recepite dal Parlamento. I cambiamenti, in meglio, sono stati così rapidi che oggi dimentichiamo quanto crudeli fossero le condizioni di moltissimi agricoltori alla conclusione della grande guerra peninsulare. La natura grottesca di alcune delle loro lagnanze è rimasta nel ricordo, ma la realtà, la reale intensità delle loro sofferenze è attualmente dimenticata. Erano furiosi e disperati e il paese, secondo il parere di molti, sembrava sull'orlo di un precipizio da cui fu salvato solamente dalla pronta e risoluta decisione di pochi uomini autorevoli. Miss Fuller parlava di questi tempi, delle esercitazioni notturne misteriose, di migliaia di uomini nella solitudine della brughiera, delle minacce mormorate da creature pressate troppo da vicino dalla necessità per essere prudenti, delle aperte azioni ostili, fra le quali l'incendio doloso della manifattura dei Cartwright fu il gesto più clamoroso. E tutte queste cose penetrarono profondamente nella mente di almeno una delle ascoltatrici. Mr. Cartwright era il proprietario di una manifattura chiamata Rawfolds, situata a Leavershead, alla distanza di una normale passeggiata da Rowhead. Aveva osato far uso di macchinario per la cardatura dei tessuti di lana, decisione impopolare nel 1812, quando molte altre circostanze cospiravano nel rendere insostenibile la condizione degli operai delle manifatture, travagliati dalla fame e dalla miseria. Mr. Cartwright era un uomo di alta levatura che aveva nelle vene, a quanto dicono, sangue straniero, le cui tracce erano chiaramente visibili nell'alta statura, negli occhi bruni e nel colorito scuro, come pure nei modi da perfetto gentiluomo. Ma tutti i suoi. In ogni modo aveva trascorso lungo tempo all'estero e parlava bene il francese, il che era di per sé una circostanza sospetta, dato il nazionalismo fanatico di quei giorni. Questo insieme di cose gli era valso una grande impopolarità anche prima della decisione di impiegare cardatrici meccaniche per le sue lane. Sapeva benissimo di essere impopolare e aveva vagliato le probabili conseguenze di quella innovazione. Fece preparare la fabbrica, sostenere un assalto, vi prese dimora e di notte le porte furono saldamente sbarrate. Su ogni scalino della rampa interna fu posto un rullo irto di fil di ferro dalle punte aguzze per impedire la salita ai tumultuanti se fossero riusciti a forzare le porte. Nella notte del sabato, 11 aprile 1812, vi fu l'assalto. Un centinaio di operai specializzati, minacciati dalla fame, si radunarono proprio sul campo che nelle vicinanze di Kirklees scendeva in lieve pendio dalla casa dove successivamente Miss Wooler andò ad abitare. Furono armati dai caporioni con pistole, asce, randelli, molti dei quali erano stati estorti agli abitanti di case isolate, che si erano provveduti di quei mezzi di difesa dalle bande armate che di notte andavano in giro in cerca di preda. La moltitudine, cupa e silenziosa, si mise in marcia nel cuor della notte. Alla volta di Raffles, e prorompendo in un alto grido, diedero a Mr. Cartwright l'annuncio che l'assalto da lungo tempo atteso era in atto. Egli era al riparo dei muri, è vero, ma per aiutarlo ad arginare la furia di quelle centinaia aveva solamente 4 suoi operai e 5 soldati. Tuttavia quei 10 uomini riuscirono con un vigoroso e ben indirizzato fuoco dei loro moschetti a sconfiggere i ripetuti disperati tentativi fatti dalla moltitudine. Dopo un conflitto di 20 minuti, durante il quale 2 degli assalitori rimasero sul terreno e parecchi altri furono feriti, gli insorti si ritirarono in confusione, lasciando Mr. Cartwright padrone del campo. Ma egli era così stordito ed esausto che, dimenticando il tipo di difesa interna da lui escogitato, si ferì gravemente a una gamba urtando contro uno dei rulli spinati mentre tentava di salire le scale. La sua dimora sorgeva nelle vicinanze della manifattura. Alcuni dei tumultuanti avevano giurato che se lui non avesse ceduto allontanandosi dalla fabbrica, sarebbero andati a quella casa e avrebbero ucciso sua moglie e i suoi figli. Era una terribile minaccia, visto che per difenderli vi erano in tutto 2 soldati. Mr. Cartwright sapeva della minaccia e in quella notte tremenda, credendo di udire ravvicinarsi passi sospetti, afferrò i suoi piccini e li mise in una cesta che poi spinse su per la cappa del grande camino, sempre presente nelle antiche case dello Yorkshire. Uno dei 2 messi a riparo in quel luogo insolito era allora una bimba, che fattasi ormai donna soleva indicare con orgoglio i segni delle pallottole, dei moschetti e le tracce di polvere da sparo sui muri della manifattura del padre, che fu il primo a opporre resistenza al progresso dei luditi che erano diventati in breve tempo così numerosi da presentare l'aspetto di un'armata insurrezionale. La condotta di Mr. Cartwright fu talmente ammirata dai manifatturieri della regione che fecero circolare in suo favore una sottoscrizione che raggiunse le 3.000 sterline. A poco più di 15 giorni dall'assalto contro Raffles, venne la volta di un altro manifatturiero che anche lui aveva adottato le odiate macchine. Fu abbattuto a colpi di arma da fuoco in pieno giorno, mentre attraversava il Crossland Moor che confinava con una piccola piantagione dove gli assassini si erano nascosti. Chi ha letto Shirley riconoscerà questi fatti narrati da Miss Bronte nel suo secondo romanzo, scritto a molti anni di distanza, dopo averne ascoltato il racconto fatto dagli abitanti del luogo, i quali ricordavano chiaramente quel terribile tempo di insicurezza per la vita e la proprietà da una parte, di cieca e disperata ignoranza dall'altra. Nel 1812 Mr. Bronte in persona aveva vissuto in mezzo a quella gente quando era pastore a Hartshead, a sole 3 miglia da Raffles, ed era stato proprio in quei tempi pericolosi che aveva preso l'abitudine di portare sempre con sé una pistola carica quando usciva da casa. Si sapeva che la sua adesione al partito Tory e il suo amore e il suo rispetto per l'autorità della legge lo inducevano a disprezzare la codardia dei magistrati in quel circondario, i quali, per tema dei luditi, rifiutavano di intervenire per impedire le distruzioni vandaliche. Gli ecclesiastici del luogo furono di gran lunga più coraggiosi. Un certo Mr. Robertson, amico di Mr. Bronte, ha lasciato un vivo ricordo di sé. Viveva nei pressi di Heckmondwike, importante villaggio dalle case sparpagliate e sudice, situato a meno di 2 miglia da Rowhead, abitate per la maggior parte da tessitori di coperte che lavoravano a domicilio, e Hills Hall è la casa più grande del villaggio in cui Mr. Robertson era allora vicario. Aveva costruito a sue spese una bella chiesa a Leavers Hedge, su una collina di fronte a quella dove era posta la sua dimora. E questa iniziativa fu il primo tentativo fatto nel West Riding per venire incontro alle necessità della popolazione che si era rapidamente moltiplicata. Aveva inoltre fatto molti sacrifici personali a causa delle sue opinioni politiche e religiose che facevano di lui un vero Tory all'antica. Detestava tutto quanto sapeva di anarchia. Era visceralmente leale alla Chiesa d'Inghilterra e al re e avrebbe sacrificato la vita con orgoglio, senza esitare, per quello che credeva essere giusto e vero. Ma era dotato di una forte volontà che lo induceva a imperversare contro qualsiasi opposizione, meritandogli di essere ricordato come avvolto da un'aura cupamente demoniaca. Era amico intimo di Cartwright e presentiva l'assalto contro la manifattura, perciò, a quanto si dice, si era armato e aveva armato i suoi dipendenti e si teneva pronto a intervenire alla prima richiesta di aiuto. Fin qui il «si dice» con ogni probabilità corrispondente al vero, visto che Mr. Robertson era animato da forte spirito combattivo pur essendo uomo di pace. Ma per quel suo parteggiare a favore della frazione impopolare, nella mente della popolazione locale sono rimasti ricordi del suo agire evidentemente esagerati, che vengono tramandati come verità. Sostengono che quando la mattina seguente all'assalto si era recato a cavallo a congratularsi con l'amico Cartwright, proibisse a quelli che lo accompagnavano di dar da bere ai luditi feriti rimasti sul terreno. Inoltre, questo ecclesiastico senza paura aveva offerto di trasformare la propria casa in caserma per i soldati mandati dalle autorità a difesa della zona, attirandosi il lastio dei lavoratori che le giacche rosse dovevano intimidire. Pur non essendo magistrato, fu instancabile nello stanare i luditi responsabili dell'assassinio di cui sopra e, grazie alla sua acuta e impavida energia, ebbe tanto successo che si finì col credere che fosse aiutato da forze soprannaturali. Anni dopo gli avvenimenti ricordati, i contadini che tra il lusco e il brusco nelle serate invernali si recavano di soppiatto nel campo che circonda Hills Hall affermavano di aver visto attraverso i vetri di una finestra il curato Robertson che, circonfuso da una strana luce rossa, ballava insieme con neri demoni saltellanti e roteanti. Dirigeva una scuola maschile dove si faceva rispettare e temere dagli allievi. Alla grande forza di volontà si univa in lui un vivo senso di cupo umorismo che gli suggeriva insoliti castighi per gli scolari refrattari. Per esempio, li faceva star ritti su una gamba sola in un angolo della classe con un pesante libro in ogni mano, e una volta che un ragazzo era fuggito per tornare a casa lo seguì a cavallo reclamandolo ai genitori. Poi, riavutolo, lo assicurò con una corda alla staffa della sella e lo costrinse a correre a pari con la cavalcatura per le molte miglia che attraversarono prima di giungere a Hills Hall. Altro aneddoto illuminante: saputo che la sua giovane domestica Betty aveva un innamorato, stette allerta finché lo sorprese in cucina e gli comandò di seguirlo in refettorio dove erano radunati tutti gli alunni. Una volta lì, martellò di domande il povero Richard, finché questi ammise di essere venuto solamente per vedere Betty. Ottenuta la confessione, Mr. Robertson diede la parola d'ordine: «Ragazzi, trascinatelo via alla pompa». Il povero innamorato fu trascinato nel cortile e il getto d'acqua della pompa lo investì. Tra una pompata e l'altra gli veniva ripetuto: «Prometti di smettere di fare la corte a Betty?» A lungo Richard rifiutò e allora tuonava nuovamente il comando: «Tornate alla pompa, ragazzi!» Alla fine il povero innamorato inzuppato si dette per vinto e rinunciò alla sua Betty. Il ritratto del tipico abitante dello Yorkshire, quale appare in Mr. Robertson, non sarebbe completo se omettessi di menzionare il suo amore per i cavalli. Essendo vissuto quasi fino agli 85 anni, già ottantenne si dilettava ancora nel domare gli stalloni refrattari, rimanendo in sella quando era necessario mezz'ora e anche più, finché la cavalcatura non cedeva. Quando una volta batté il cavallo preferito di sua moglie e poi lo fece seppellire in una cava di pietra lì vicino, dissero che aveva agito in un accesso di furore. Ma quando alcuni anni più tardi la terra si era spalancata quasi miracolosamente, dissero, restituendo nelle spoglie, la verità era ormai conosciuta Egli aveva agito per compassione, ponendo fine alle sofferenze di un povero vecchio animale, al quale aveva sparato personalmente per essere sicuro che non venisse inutilmente tormentato. Al punto dove era stato seppellito, anni dopo avevano aperto il pozzo di una miniera di carbone e così il suolo aveva ceduto, riportando nelle ossa la luce. Il modo in cui ce lo presenta la tradizione popolare dimostra il malanimo che una parte di quelli che furono suoi parrocchiani nutrì verso di lui. Ma altri lo ricordano mentre in tarda età, dalla collina su cui sorge la casa che fu sua, scendeva inforcando un robusto cavallo bianco con portamento altero, un cappello dalla larga tesa abbassato sulla fronte a far ombra agli occhi dallo sguardo d'aquila, avviato a svolgere le incombenze domenicali, soldato fedele deciso a morire sotto le armi. Ne apprezzano e lodano la retta coscienza, il sacrificio al dovere, la difesa dei principi religiosi e ne venerano la memoria. Vecchissimo, tutti i suoi confratelli vollero omaggiarlo con un raduno indetto in suo onore, dimostrandogli così il loro profondo rispetto e la grande considerazione in cui lo tenevano. Quanto mi sono dilungata a ricordare illustra la forza di carattere di cui il clero dello Yorkshire appartenente alla Chiesa nazionale diede frequente dimostrazione. Mr. Robertson era amico del padre di Charlotte Bronte. La sua residenza si trovava a circa 2 miglia da Rowhead mentre lei vi era in collegio ed era stato impegnato a fondo in azioni il cui ricordo era ancora fresco quando lei ne udì parlare e seppe la parte che egli vi aveva avuto. È opportuno che a questo punto accenni anche alle caratteristiche dei dissenzienti che abitavano intorno a Rowhead, poiché la figlia dell'ecclesiastico Tory, che si era interessata di politica fin dall'età di 5 anni, ora sosteneva frequenti discussioni con le ragazze che appartenevano a famiglie dissenzienti o radicali, essendosi informata del suo meglio sulle idee delle compagne alle quali opponeva le sue opinioni. La maggioranza degli abitanti in quella zona appartenevano alla setta dei dissenzienti, per lo più del gruppo indipendente. Nel villaggio di Eckmondwike, alla cui estremità si trovava Rowhead, vi sono 2 grandi cappelle appartenenti a quella setta, più una terza dei metodisti. Tutte venivano frequentate 2 o 3 volte al giorno alla domenica. Inoltre vi si tenevano frequentemente svariate riunioni di preghiera nei giorni feriali. Gli abitanti in generale non vi mancavano, ascoltavano i sermoni con spirito critico, avevano tendenze tiranniche verso i loro pastori e opinioni violentemente radicali in politica. Un'amica, buona conoscitrice del luogo, mi ha narrato alcuni fatti che avvennero mentre Charlotte era a scuola. Ripeto le sue parole. Una scena che si svolse nella cappella inferiore di Eckmondwike vi darà un'idea approssimativa di come fosse la gente a quei tempi. Se una coppia di sposi novelli era presente, solitamente detta l'ultima preghiera veniva cantata l'antifona delle nozze mentre la congregazione lasciava la cappella. Il coro che la intonava era di regola compensato con denaro che spesso poi era speso all'osteria dove i cantori trascorrevano la nottata bevendo o perlomeno così diceva il pastore allora in carica, che prese la decisione di por fine a quella consuetudine, sostenuto da vari fabbricieri e da molti membri della congregazione. Ma l'elemento democratico era così forte che egli si scontrò con una violentissima opposizione e fu spesso insultato da chi lo incontrava per strada. Aspettavano solamente la comparsa di una sposina novella. Quando l'occasione si presentò e il pastore ammonì i cantori di non intonare l'antifona, quelli dichiararono che l'avrebbero cantata. Lui fece chiudere con chiavistelli l'alto sportello della galleria che solitamente occupavano. Le serrature furono forzate. Il ministro annunciò dal pulpito alla congregazione che invece di cantare un inno in coro per iniziare la cerimonia, egli si preparava a leggere un capitolo. Aveva a malapena pronunciato le prime parole quando i cantori si rizzarono e, capeggiati da un tessitore alto dall'aspetto feroce che intonò un inno, gli tennero bordone, seguiti da quanti fra i membri della congregazione tenevano per loro, tutti in piedi cantando a piena voce. Quelli che ne disapprovavano la condotta rimasero seduti in silenzio fino alla fine dell'inno. Quando gli altri tacquero, il pastore indicò nuovamente il capitolo, lo lesse e fece il sermone. Stava per concludere con la preghiera finale quando i cantori balzarono in piedi e urlarono un altro inno. Queste scene vergognose furono ripetute per molte settimane e i risentimenti erano così violenti che i fedeli dei due partiti antagonisti si trattenevano a malapena dal venire alle mani mentre attraversavano il sagrato. Alla fine, il ministro rinunciò all'incarico e insieme con lui se ne andarono molti dei fedeli che appartenevano alla parte più rispettabile della congregazione e i cantori trionfarono. Inoltre mi consta che circa in quello stesso tempo sorse una così violenta contesa a proposito della scelta di un nuovo pastore per la cappella superiore di Heckmondwike che fu necessario leggere ufficialmente ai parrocchiani riuniti alcuni comma della legge che commina la pena dell'arresto per alto tradimento ai rivoltosi. Certamente i sedicenti cristiani che 10 o 12 anni prima Haworth avevano scacciato Mr. Redhead erano paganamente affratellati con i sedicenti cristiani di Heckmondwike, benché una setta si proclamasse appartenente alla Chiesa d'Inghilterra e l'altra si definisse dei dissenzienti. La lettera da cui ho ricavato le notizie narra da cima a fondo fatti avvenuti nelle immediate vicinanze del luogo dove Charlotte Bronte trascorse i suoi giorni di scuola e descrivono le cose quali erano proprio a quei tempi. Chi mi scrive dice: abituata com'ero ai modi rispettosi dei dipendenti dei distretti rurali, a tutta prima fui assai disgustata e alquanto allarmata dalla grande libertà dimostrata dai membri della classe operaia di Heckmondwike e di Gomersall nel trattare i loro superiori. Il termine «bella mia» vi è applicato a qualsiasi giovane donna così liberamente come ragazza nel Lancashire. Fui non poco scandalizzata dall'aspetto estremamente dissestato dei villaggi, benché debba ammettere, rendendo giustizia alle massaie, che le singole casette prese una a una non erano sudice e quando il lavoro non mancava offrivano un aspetto di rustica abbondanza che non avevo potuto notare nei distretti agricoli. Il mucchio di carbone da un lato della porta d'ingresso, la botte da fermentazione dall'altro e il frequente odore del malto e del lupolo che si percepiva nell'oltrepassarle dimostravano che il fuoco e la birra fatta in casa si incontravano in quasi ogni focolare domestico. Né mancava l'ospitalità, una delle principali qualità dello Yorkshire. Focacce d'avena, formaggio e birra erano insistentemente offerti al visitatore. A Heckmondwike si svolgeva annualmente una festa, a metà religiosa e a metà profana, che andava sotto il nome di conferenza. Immagino che l'uso ne risalisse al tempo dei non conformisti. In un giorno feriale un estraneo veniva a predicare di sera nella cappella inferiore e all'indomani erano tenuti successivamente due sermoni nella cappella superiore. Naturalmente questa funzione era lunghissima e siccome si svolgeva nel mese di giugno e faceva generalmente molto caldo, il tutto era considerato da me e dalle mie compagne un modo assai poco piacevole di trascorrere la mattina. Il resto della giornata era occupato dagli svaghi sociali. Giungevano da ogni parte numerosi gruppi di estranei, venivano erette bancarelle per la vendita di giocattoli, di dolciumi, di pan pepato. Le casette rustiche che erano state rinfrescate con una mano di calce prendevano un aspetto veramente festivo. Il villaggio di Gomers Hall, dove viveva la famiglia di Mary, grande amica di Charlotte Bronte, era un luogo assai più piacevole di Heckmondwike. Vi si trovava una casetta rustica dall'aspetto strano, costruita con pietre dirozzate e sporgenti qua e là. Alcune di esse in forte aggetto mostravano teste appena abbozzate e visi ghignanti. Su un blocco posto come architrave, sulla porta, erano incise grandi lettere che formavano due parole: Spite Hall, casa del dispetto. Era stata costruita da un abitante del villaggio di fronte all'abitazione di un suo nemico che aveva finito di farsi erigere una comoda casa da cui la vista spaziava sulla valle sottostante, che ora quegli orribili muri schermavano completamente. Le 8 o 9 allieve della gentile Miss Fuller si muovevano senza timore fra quella gente che conoscevano bene. La maestra, da parte sua, era nata e cresciuta in mezzo a quella comunità rude, forte, violentemente fiera, e sapeva quanta sostanziale bontà si nascondesse sotto le consuetudini ribelli, le prese di posizione insubordinate. Le ragazze parlavano del piccolo mondo che le circondava come se fosse l'unico sotto al sole. Ne avevano le opinioni, ne seguivano i partiti, ne riecheggiavano le accanite discussioni come fossero persone mature. E in mezzo a loro, ben voluta e rispettata da tutte, presa occasionalmente in giro da poche, ma sempre a viso aperto, visse per 2 anni la miope, poco attraente, infagottata e studiosa fanciulla che rispondeva al nome di Charlotte Bronte. Capitolo 7. Miss Bronte lasciò Rowhead nel 1832, essendosi meritata l'affettuosa considerazione della sua insegnante e di tutte le compagne, e avendo stretto 2 profonde amicizie che dovevano durare tutta la vita, una con Mary, che non ha conservato le sue lettere, l'altra con E, che mi ha gentilmente affidato tutta la corrispondenza che è riuscita a conservare. Esaminando la prima parte, sono colpita dalla totale assenza di una qualsiasi speranza che fu una delle più salienti caratteristiche in Charlotte. A un'età in cui generalmente le fanciulle guardano al futuro sicure dell'eterna durata dei sentimenti che nutrono e non concepiscono che ci si possa sottrarre a un qualche impegno, pur difficile che sia, sollecitato dall'affetto reciproco, Charlotte è sorpresa che E mantenga fedelmente la promessa di scriverle. Molto più tardi io stessa ho constatato con penosa sorpresa come Miss Bronte non si permettesse mai di guardare all'avvenire con speranza, quanto poca fiducia avesse nel futuro. Ma pensai, sapendo degli anni pieni di dolore che aveva vissuto, che fosse stato il peso di quella desolazione a uccidere in lei ogni fervida attesa. Però, da quanto si legge nelle lettere a E, vien fatto di dedurre che quell'atteggiamento era inerente alla sua indole, a meno che la profonda scossa cagionata dalla morte delle 2 sorelle maggiori, con l'aggiunta di una permanente condizione di debolezza fisica, non ne sia stata responsabile. Se la sua fiducia in Dio fosse stata meno salda, si sarebbe certo abbandonata ad un'ansietà senza limiti. In realtà, come vedremo, seppe fare un grande e valido sforzo per lasciare tutto nelle mani del divino.